Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, nuova settimana, nuova puntata, una buona giornata naturalmente a tutti quanti. Dal 4 luglio cambia il processo civile in Italia, stiamo parlando di sabato prossimo, entra in vigore la legge di riforma che ha l'obiettivo di imprimere una forte accelerazione ai tempi delle controversie. E parliamo di una riforma che avrà un forte impatto per operatori della giustizia, sui cittadini, su imprese e sulla pubblica amministrazione. Che cosa cambia? Per chi vuole approfondire l'argomento oggi, oltre ad ascoltare Salva Danaio, il Sole 24 Ore propone ai lettori due diversi strumenti: il nuovo processo civile e il codice di procedura civile. Sono due guide, saranno in edicola entrambe appunto a partire da oggi a costi differenti. Quello di cui parliamo oggi è esattamente il nuovo processo civile, che è un instant book, ne abbiamo avuto modo anche di parlare in altre circostanze di pubblicazioni di questo tipo. Questo è in edicola da oggi con il Sole 24 Ore a 4,90 euro, così lo diciamo subito in modo tale che gli ascoltatori non vadano in edicola così, e così immagino appunto di trovarlo gratuitamente, correttamente lo dobbiamo dire, però insomma è un dossier, una guida pratica molto interessante che oggi scorreremo insieme a due degli autori, Giovanni Negri e Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Ma siccome si parla anche di un ampliamento delle competenze della figura del giudice di pace, e allora per capire tutto ciò che cambia stamattina abbiamo invitato anche Franco Petrelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità, se vorrete, di interagire con noi, di intervenire in diretta, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666, perché parliamo di questi temi a Salva Danaio. È abbastanza inconsueto che si parli dei temi della giustizia, l'abbiamo fatto con Giovanni in altre circostanze per la class action e per altri argomenti che hanno un diretto impatto nella vita dei consumatori. Perché oggi abbiamo deciso di parlare di questa novità? Perché, come abbiamo detto anche nel corso del giornale radio, lo sapete bene, ci capita di imbatterci in queste problematiche, le lungaggini della giustizia si ripercuotono anche sul nostro portafoglio, e quindi oggi cercheremo di capire se le nuove norme ci tuteleranno di più anche da questo punto di vista. Prima di partire con questo esame, prima di partire su questo argomento però, come sempre diamo un'occhiata anche al tema della borsa, che oggi era partita piuttosto a rilento in Europa, adesso invece c'è un'accelerazione anche da questo punto di vista, non solo nei termini appunto della giustizia di cui parleremo questa mattina. Abbiamo un rialzo che sta sfiorando adesso il punto percentuale a Parigi e Francoforte, Londra rimane un pochino più indietro come Milano, Londra più 0,20, Milano più 0,56% sulle FTSE MIB, l'euro sul dollaro è a quota 1,40,39, il petrolio è scivolato sotto i 69 dollari al barile, per cui abbiamo una buona notizia almeno da questo punto di vista. Quali temi stanno dominando la seduta di Piazza Affari? Prysmian più 4,90, il gruppo ha bloccato la fusione di cui si parlava da mesi con la francese Semaine Francaise, per cui evidentemente il mercato piace questa inversione di rotta su questa decisione, il titolo è rialzo infatti del 5%. Anzi, Italcementi, scusate, stava portando avanti la fusione con Semaine Francaise. Prysmian invece sta portando avanti un'altra idea di fusione con un gruppo olandese che si chiama Draka, e questa potrebbe andare in porto, a quanto pare i titoli sono in rialzo, la Draka in Olanda addirittura guadagna qualcosa come il 18%. A2A più 2%, Luxottica più 1,98, Buzzi più 1,81, Geox più 1,76%. Abbiamo gran parte del settore bancario che va bene, ma non tutto, perché Monte dei Paschi perde mezzo punto percentuale. Abbiamo una giornata invece piuttosto negativa per l'Ottomatica, meno 5%, c'è un giudizio negativo degli analisti di Chevron, ma c'è anche la nuova gara per la nuova concessione dei Gratta e Vinci, e quindi titoli appunto in forte ribasso. Unipol meno 0,4%, Intesa meno 0,2%, Snam Rete Gas meno 0,08%, questi i movimenti più vistosi della giornata a Piazza Affari. Noi però lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, come preannunciato, con la collaborazione delle Sole 24 Ore. Oggi indaghiamo nel nuovo processo civile. Vacanze all'insegna di maggior lavoro per i giudici di pace. A partire dal prossimo 4 luglio, infatti, in seguito alla riforma del codice di procedura civile, le competenze dei giudici di pace si allargheranno. Dalle liti sui beni mobili alle controversie sul risarcimento dei danni da circolazione stradale o nautica. Ma non è tutto. La maggiore novità riguarda la competenza esclusiva in materia previdenziale e, in particolare, sulle cause per ottenere il pagamento degli interessi per il ritardo nella corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali. Ma tra gli effetti della riforma rientra anche l'innalzamento delle competenze. Per le cause di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di natanti, di competenza del giudice di pace, per esempio, il limite del valore della controversia, prima fissato intorno ai 15.000 euro, viene innalzato a 20.000. Per quelle relative a beni mobili, da circa 2.500 euro si passa a 5.000. Il campo di intervento dunque si estende, tanto che secondo alcune stime il numero di controversie che confluirà ai magistrati onorari si aggirerebbe intorno alle 400.000 cause, settore previdenziale escluso. Un fattore, quest'ultimo, che rischia di dare origine a una contraddizione, considerato che il numero di liti arrivate sui tavoli dei giudici di pace è cresciuto nel corso degli ultimi anni. Segnale che il lavoro non mancava. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per interagire con noi questa mattina, ma non tanto con me quanto con i colleghi del Sole 24 Ore, Giovanni Negri. Intanto ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. E ben trovato invece ad Alessandro Galimberti, che non avevamo mai avuto il piacere di ospitare. Ben trovato anche a te, Alessandro. Grazie, buongiorno. E soprattutto benvenuto al giudice Franco Petrelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto, giudice. Allora, io farei un po' di ordine intanto in questa materia che per me, come immagino per un po' di ascoltatori, non sia proprio di facile approccio. Giovanni, comincio con te, perché il tema mi pare sia un po' sempre quello: liberare i tribunali da carichi di lavoro sempre più insostenibili. Ci puoi spiegare da che cosa deriva questa riforma, come c'è arrivato il nostro ordinamento? Ma diciamo che questa è forse l'ennesima riforma della giustizia civile, una riforma ambiziosa per la verità, come anche altre, senza pregiudizi, tanto è vero che viene cancellato tra le misure che vengono prese. Noi ci siamo concentrati per ora in questa trasmissione sui giudici di pace, ma in realtà l'intervento che tra pochi giorni sarà in vigore è molto più ampio, molto vasto, e riguarda tanti aspetti. Poi magari i capisaldi li ricordiamo volentieri. Sì, certo. Ecco, l'ambizione è sempre quella di riuscire a tagliare un po' i tempi di decisione delle controversie civili, recuperare spazi di manovra per la magistratura togata, affidando magari nuove competenze alla magistratura onoraria, e nello stesso tempo provare ad eliminare un pochino, ad abbassare quello stock di cause arretrate che rappresenta effettivamente il vero debito pubblico della nostra giustizia. Insomma, un obiettivo sicuramente nobile, razionale anche, però mi pare di capire che i giudici di pace, che inizialmente mi sembrava avessero accolto non con tanto disappunto tutte queste novità, forse adesso ci hanno ripensato, perché mi pare di capire che abbiano indetto addirittura una settimana di sciopero dal 13 al 18 luglio. Giudice Petrelli, devo farle subito commentare questa iniziativa, perché liberare i tribunali significa intasare le vostre scrivanie. Sì, lo sciopero che è stato proclamato è una misura molto grave che io auspico possa essere evitata attraverso degli interventi che tengano conto delle esigenze che i giudici di pace da tempo hanno rappresentato. A tutte le istituzioni, a tutti gli organismi, a tutti gli interlocutori del mondo della giustizia. Mi riferisco in particolar modo agli aspetti relativi alla conferma in servizio dei giudici di pace, che oggi sono sostanzialmente dei precari, seppure assoggettati a delle continue proroghe, continuano ad essere dei precari. E io vorrei sottolineare che questo precariato è particolarmente dannoso per quanto riguarda gli attuali giudici di pace, in quanto obbliga gli attuali giudici di pace a esercitare contemporaneamente la funzione giurisdizionale e la funzione di avvocato, perché altrimenti non avrebbero nessuna certezza. Sono convinto che se il legislatore si decidesse finalmente a garantire ai giudici di pace il rinnovo quadriennale, previo ovviamente una verifica di idoneità, di permanenza dei requisiti che portano alla nomina e all'esercizio della funzione, la gran parte dei giudici di pace cesserebbe di esercitare la funzione dell'avvocatura e si dedicherebbe unicamente alla funzione giurisdizionale, con vantaggi anche, come posso dire, dal punto di vista della trasparenza. Ma questo è il tema dello sciopero, giudice Petrelli? Certo, il tema è l'ampliamento delle vostre competenze, l'aumento del limite economico. No, l'ampliamento delle competenze non può che essere visto positivamente di per sé. Non è certo questa la ragione dello sciopero. È che all'aumento delle competenze non si accompagna una razionalizzazione del carico di lavoro e degli organici, una revisione dello status ordinamentale e previdenziale della categoria e di conseguenza genera insoddisfazione. Ma che l'aumento della competenza fosse fra gli obiettivi che la stessa associazione si proponeva da tempo non c'è dubbio di sorta. Posso aggiungere una cosa? Certamente. Noi immaginavamo che il legislatore avrebbe operato nell'ampliare, nel modificare le competenze del giudice di pace, tenendo conto della vocazione originaria del giudice di pace, che è quella di essere il giudice del vivere quotidiano, il giudice della convivenza civile. E quindi, per esempio, fra gli aumenti di competenza si sarebbe potuto prevedere l'attribuzione al giudice di pace di tutte le controversie in materia condominiale. Invece oggi sono divise a metà. In parte le risolve il tribunale, in parte risolve il giudice di pace e spesso non si sa neppure quale sia il giudice competente a risolverle, con danno per il cittadino che ha imboccato una strada piuttosto che un'altra. È stato chiarissimo. Alessandro Galimberti, coinvolgo anche te in questa chiacchierata, perché abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata venerdì scorso quando abbiamo cominciato a preparare questa trasmissione. Abbiamo ricordato, appunto, il giudice Petrelli lo ricordava, lo spirito originario della nascita di questa figura nell'ordinamento giudiziario del nostro paese, che risale al 1995. È stata anche però una strada un po' tortuosa quella che ha seguito questa figura nel nostro paese, che io non piace troppo, credo che continui a scontare una grossa contraddizione originaria la figura del giudice di pace, cioè dando atto all'opera che hanno svolto in questi 15 anni, hanno evitato il default della giustizia, e questo nessuno si sognerebbe di negarlo. Tra l'altro, lavorando a metà regime, perché credo che ne siano contemplati nell'ambito della giustizia quasi 5.000, invece sono ampiamente sotto organico. E poi, come ricordava prima fuori trasmissione il giudice Petrelli, sono veramente mal distribuiti sul territorio, non c'è un criterio di efficienza e di razionalità, probabilmente rispondono anche ad altre logiche di ripartizione territoriale. Il problema però, io sostengo, e credo di non essere l'unico, questo è un dibattito molto, molto vivo tra gli operatori della giustizia, è una figura contraddittoria il giudice proprio dal punto di vista concettuale. Ha ragione il giudice quando dice doveva essere un giudice di prossimità con il giudice di pace, per esempio le cause condominiali che intasano i tribunali ovunque. Ma noi ne parliamo spesso quando parliamo di sanzioni amministrative, della multa per esempio. Invece il processo di sviluppo, diciamo così, geometrico all'interno dei codici di questa figura l'ha fatto diventare un vice magistrato che erode terreno alla magistratura su competenze che dovrebbero essere proprie caratteristiche della magistratura professionale, nel senso professionista selezionata per esami. Io cito un esempio che secondo me è veramente aberrante, con tutto il rispetto e l'assoluta stima che ho per i giudici di pace. Il decreto Pisano del 2004-2005 ha introdotto per esempio una competenza di verifica della legittimità dei provvedimenti di espulsione dello straniero. Perché lo deve fare un ordinamento onorario e non lo fa un potere dello Stato, insomma un ordine dello Stato stabilito dalla Costituzione come quello della magistratura ordinaria? È un meccanismo di delega deflattiva, quella dei giudici di pace, che secondo me non rende onore alla loro figura, li fa diventare in molti casi dei giudici di serie B come tali, che non dovrebbe essere, come tali poco sopportati dalla magistratura professionale, che all'inizio li vedeva bene perché sembrava dei bravi ometti che ci faranno le cause di poca. Quando poi invece c'è stato un processo di espansione delle loro competenze, sono invisi ai magistrati, non godono di buona stampa nemmeno presso gli avvocati per tutta una serie di altri motivi, E quindi secondo me questa era l'occasione anche per fare una risistemazione concettuale del giudice di pace, cioè creare una vera dignità di materia, di competenza. Un'occasione persa secondo me, perché lo sviluppo è sempre geometrico in avanti, che io non condivido, ma non penso di essere l'unico. Voglio aggiungere un'altra cosa, esiste un problema di sofferenza di carico di lavoro e di organici mal distribuiti e insufficienti, ed è assolutamente vero. Non credo che però aumentare di 5.000 euro la competenza ci faccia andare in default, come non credo che le cause previdenziali, di cui tratteranno solo gli interessi per ritardate prestazioni, non credo che saranno Anche perché il limite economico mi sembra anche un punto abbastanza interessante da chiarire, Giovanni. Erano stati dei limiti che erano stati definiti nel 1995, quindi mi sembra che dopo 14 anni Avevano probabilmente, era anche il caso di aggiornarli. Ma sì, probabilmente avevano bisogno di un aggiornamento. Sicuramente la figura del giudice di pace ha bisogno di una riforma complessiva. Devo dire che anche la progressiva estensione della sua azione nel campo penale sicuramente si presta magari a qualche osservazione, probabilmente anche nell'immediato futuro con le norme sulla sicurezza altre competenze potrebbero arrivare, ed una preoccupazione alla base di questo sciopero c'è e va anche in questa direzione, soprattutto per quanto riguarda il reato di immigrazione clandestina. Ecco, quindi c'è un progressivo aumento delle competenze, una stasi sostanzialmente degli organici, un'assenza di sistemazione anche retributiva, previdenziale, che giustamente ricordava il presidente Petrelli. E nello stesso tempo però i segnali che arrivano a livello magari brutalmente numerico non sono poi così incoraggianti, perché l'arretrato anche davanti ai giudici di pace è andato negli ultimi anni progressivamente aumentando. Perciò i segnali che arrivano anche dal legislatore sono veramente contraddittori, nel senso che da una parte si dà un'apertura di credito sia sul civile con queste norme di cui stiamo parlando adesso, sia a brevissimo di nuovo sul penale, dall'altro non si colmano i vuoti in organico, non li si distribuisce meglio queste figure del giudice di pace, non li si mette probabilmente nelle condizioni di poter lavorare un pochino meglio. Detto, in attesa che tutto questo si possa definire più o meno a breve, però intanto i nostri ascoltatori ci stanno, come dire, cominciando a bussare alla porta. Giudice, io ovviamente continuerò a chiacchierare con lei, ma le faccio sentire anche cosa vogliono sapere i nostri ascoltatori. Ovviamente, come dicevo, in attesa che tutto questo si definisca, c'è intanto chi a questa figura fa ricorso e magari chiede invece di saperne qualcosa di più, perché magari ha una piccola rogna da risolvere, magari questa sede potrebbe essere quella più opportuna proprio per risolvere il proprio problema. Allora, cominciamo con Francesco D'Ancona, che ci chiama all'800240024. Francesco, buongiorno. Lei ha, come dire, fatto ricorso ad un giudice di pace nella sua vita? Sì, buongiorno. Io mi è capitato di far ricorso e diciamo che è andato male. E lì il mio avvocato, come dire, forse rientra tra quelli che sentivo poco fa in trasmissione, ce l'hanno un po' con i giudici di pace. Non so se ha torto o ha ragione. Adesso mi direte magari voi l'altra. Ci racconti l'antefatto. L'antefatto è, diciamo che adesso magari non vorrei raccontarlo in trasmissione, però quello che l'avvocato poi alla fine mi ha spiegato è stato sostanzialmente questo. Lui, l'avvocato, diceva che noi in diritto avevamo ragione e tuttavia il giudice di pace aveva optato per un'altra soluzione. Si trattava in realtà, ecco, dico l'ambito, di un problema condominiale, insomma, quindi una controversa. Ecco, allora la tipica situazione che finisce poi sulla loro scrivania, nel loro ufficio. Sì, Francesco. Sì, la questione era questa, l'importo era ovviamente anche piccolo, e l'avvocato mi diceva questo: il giudice ordinario giudica in diritto, il giudice di pace meno, nel senso che giudica anche secondo buonsenso. Allora così mi domandavo se alla fine su 2000 è, perché poi una volta che emette sentenza, quella è una sentenza a tutti gli effetti. E certo. Quindi se io altrimenti si va ad un tavolo conciliativo di altra natura e in quei casi si invitano le parti a parlare e, come dire, la procedura poi è un'altra, Francesco. Sì, certo. E quindi però se io volevo ricorrere perché avevo ragione a tutti gli effetti, io dovevo andare, insomma, per vie che anche costose, eccetera. Allora la domanda è, ma ok, finché parliamo di 1500 euro è un discorso, ma se andiamo anche oltre, ma sarà che allora forse la riforma, ecco, è un modo per spostare altrove problemi di altra natura, insomma. Non sono così convinto, ecco. Francesco, io comunque la ringrazio molto per la sua testimonianza. Stiamo ripartendo a Salva Danaio, ancora buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Questa mattina stiamo tentando di esplorare, che è un tema abbastanza inedito per il nostro contenitore di finanza personale, ma stiamo tentando di capire in cosa consiste il nuovo processo civile che entrerà in vigore a partire dal 4 luglio e soprattutto quali sono le nuove competenze del giudice di pace, che è quella figura alla quale molte famiglie ricorrono magari per risolvere problematiche di una determinata natura economica. Queste competenze stanno ampliandosi e con qualche polemica anche, che abbiamo avuto modo anche di spiegare nella prima parte della trasmissione. E allora, alle domande vostre questa mattina all'800240024 rispondono due colleghi del Sole 24 Ore che hanno curato e coordinato l'Instant Book che esce oggi con il Sole 24 Ore proprio sul nuovo processo civile, e sono Giovanni Negri e Alessandro Galimberti, ma soprattutto con noi stamattina è il giudice Franco Petrelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace. Giudice Petrelli, abbiamo sentito quello che ci ha raccontato Francesco D'Ancona. Lui ha fatto ricorso al giudice di pace per una piccola questione condominiale, che è tipicamente quella che arriva sulle vostre scrivanie, perché era convinto anche di vincerla questa causa e poi l'ha persa, e lui mette adesso in discussione le modalità con cui il giudice arriva alle sue sentenze, che poi naturalmente sono applicabili alla strega di qualsiasi altro giudice ordinario, naturalmente. Ovviamente. Come rispondiamo? Ma perché voi Francesco prendete le vostre decisioni anche? Vorrei dire in primo luogo che il giudice, la parte non se lo può scegliere, cioè il giudice, quando è competente il giudice di pace, non si può andare che dinanzi al giudice di pace e accogliere il suo giudizio. Devo dire che io mi auguro che né i giudici di pace né i giudici professionali perdano di vista il buon senso nell'emanare una decisione, però è certo che come gli altri giudici, il giudice di pace è tenuto ad applicare il diritto. Nella specie io non conosco. Però lui sostiene che in realtà ha più applicato in realtà una sentenza di buon senso. Vabbè, è un'opinione di Francesco, può anche darsi che abbia ragione. Sarei un pessimo giudice se mi azzardassi un giudizio sulla qualità della decisione assunta dal giudice di pace che si è pronunziato. Può darsi anche che abbia ragione. Lo ha insegnato in questo senso il suo legale. Per questo, anche i legali hanno il diritto di dire delle bugie, no? Fa parte talvolta della professione. Speriamo che non ci stiano ascoltando. Comunque, legale diciamo di Francesco. A Francesco che se la sentenza è veramente una sentenza storta, ci sono i rimedi di impugnazione. Quali sono, giudice? L'appello dinanzi al tribunale, e qualora la sentenza del tribunale non appaia soddisfacente, il ricorso per Cassazione. Per cui ci sono. E qualora anche lì non gli dessero ragione, evidentemente deve farsi una ragione del fatto che non ce l'ha. Devo dire, per precisare, no, per quanto è stato detto dai giornalisti che mi hanno preceduto. Che è vero che l'arretrato, le pendenze dinanzi al giudice di pace vanno aumentando, ma il numero di procedimenti esauriti dinanzi agli uffici del giudice di pace ha superato 1,5 milioni di cause all'anno, nonostante l'organico dei giudici di pace sia progressivamente sceso per una serie di cause. Organico che è stato fissato dalla legge istitutiva del giudice di pace nel 1991, misurando e valutando o stimando almeno l'impegno che sarebbe stato richiesto ai vari uffici del giudice di pace, ma ripetendo gli organici delle vecchie preture mandamentali, cioè di istituti giudiziari persi ormai da decenni. Allora, Luigi da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica tutto. Senta, io volevo sapere un problema. Mio padre ha avuto un incidente e aveva ragione. Sì. Ha avuto una causa e il giudice di pace deve depositare la sentenza. È già 7 anni che aspetto. Non ci credo. Giudice, ma se fosse vero, bisogna, credo, prendere dei provvedimenti di natura fisica, di natura afflittiva corporale. Cioè, creando dei precedenti inediti. Non so. Qual è il termine, perentorio, giudice? 60 giorni, il 30 giorni è il termine normale, 60 giorni è ampiamente tollerato da tutti. qualche mese può anche succedere, ma insomma io ho fatto parte del Consiglio Giudiziario fino a un anno e mezzo fa, e in Consiglio Giudiziario i casi nei quali i giudici di pace, come gli altri giudici peraltro, ritardavano il deposito delle sentenze, venivano censurati e sanzionati. 7 anni, mi pare... Non so, faccio fatica a credere. Luigi, dobbiamo convincere il giudice Petrelli che però questo è quanto le sta capitando. Luigi, mi sente? Io chiamo tutte le settimane il mio avvocato e mi dice che devo avere pazienza, che non si può fare niente. Va bene, senta, guardi, ci documenti un po' meglio su questa sua situazione, Luigi, perché io sicuramente la passo ai colleghi che si occupano di queste tematiche, al Sole 24 Ore, che saranno ben felici di indagare. No, Giovanni mi sta dicendo non ci pensare neanche lontanamente, ma a parte gli scherzi, no, io credo che invece siate curiosi di capire come certo, mai ma si passi da 60 giorni a 7 anni, mi sembra. Cioè, Luigi è stato praticamente uno dei primi ad utilizzare il giudice di pace nel nostro paese a giudicare dai tempi e non è rimasto per nulla, pur avendo avuto ragione tra l'altro. Giuseppe da Modena, benvenuto anche a lei. Ah, questa è carina, Giuseppe. Buongiorno, senta, sì, la premessa è carina. Io prima di tutto ringrazio Radio 24 che la sento ogni volta quando posso ed è una grande radio. Meno male. No, veramente. Senta, il mio discorso è questo. Io ho un terreno in montagna che risulta boscato. Sia dal punto di vista regionale, dal punto di vista provinciale, dal punto di vista comunale. Boscato significa che il terreno è adibito a bosco, sì. E sono 70-80 anni che è adibito a bosco. Un bel giorno un signore di fianco compra il pezzo, una casa di fianco, e decide di denunciarmi perché il mio bosco, secondo lui, gli dà ha paura che un albero gli possa cadere in testa, ecco. Sì. Quindi cosa mi denuncia al giudice di pace col suo avvocato, che è una tipica situazione pure questa, che si trova di vicinanza, le distanze di alberi e siepi è proprio una tipica è una legge del 27, il giudice sicuramente se la ricorderà, quindi di conseguenza il giudice di pace ha applicato quella legge non rendendosi conto che il terreno è in montagna. Cioè non è in pianura o in un centro abitato, cioè è proprio in montagna. Col maresciallo della Forestale abbiamo spiegato guardi, che il terreno è in montagna. Lui mi ha condannato in contumacia perché logicamente non si riusciva mai a sapere esattamente qual era la data del processo. Cioè lui dava una data del processo e diceva guardi che io quel giorno non posso venire perché sto lavorando, perché lavoro dalle 7 del mattino alle 6 di sera. Dico, ma questi giudici di pace, condannandomi in contumacia, mi hanno fatto distruggere un bellissimo bosco, primo. Vado incontro a multe sia della forestale che della regione che della provincia, perché devo tagliare delle cose che non potrei assolutamente insomma, Giuseppe, fare. Quindi la contestazione adesso, vabbè, ho capito che è finita male la situazione, io avevo visto che dalle anticipazioni che mi avevano fatto le ragazze del centralino e che voleva interloquire direttamente con lui, ma non è possibile? Appunto, dico, ma questi giudici di pace, quello vecchio è andato in pensione, c'è quello nuovo. Io dico, ma non hanno degli orari anche loro da poter... Il giudice stesso ha detto che dovrebbero discutere le cose in maniera, come dice il termine, giudice di pace, cioè in maniera da mettere pace fra le parti. Ma qui loro mi condannano, dicono le loro cose, applicano una legge del 1900 e rotti. Benissimo, Giuseppe. Non si rendono conto delle cose, cioè... Io non capisco perché. Adesso ce lo facciamo spiegare dal giudice Petrelli. Insomma, vabbè, adesso che bisognerebbe conoscere ovviamente nel dettaglio tutta la vicenda e le motivazioni che hanno portato ad una certa decisione. Mi sembra il giudizio però in contumacia... di capire che non si tratti un giudizio in contumacia, ma che il giudice abbia disposto l'interrogatorio della parte, e se lui la non parte ci andava... non si è presentata e il giudice probabilmente nel decidere avrà tenuto Quante conto. Quante volte anche potete interpellare le parti, giudice, prima di arrivare ad una decisione di questo tipo? Quanto è numero necessario? Ragionevole. Una volta è sufficiente, non c'è bisogno di ripetere l'interrogatorio, no? Se è stato esauriente, se è stato condotto. No, ma qualora per esempio una parte, come nel caso di Giuseppe, non potesse essere presente, il giudice deve apprezzare se l'impedimento è giustificato. qualora lo ritenga giustificato, fissa nuova udienza per l'interrogatorio della parte. Se lo ritiene ingiustificato, deve tenerne conto anche agli effetti della decisione. Sulla specifica questione, ovviamente si tratta di una legge speciale che di cui non ho mai sentito parlare e che quindi mi asterrei dal commentare. No, tra l'altro quando sono io casi così sfortunatissimi questi, guardi, non li stiamo cercando apposta, sono le persone, ma giustamente noi siamo una radio di servizio, perché, il giudice quindi ci cercano le persone che magari hanno avuto qualche inghippo. Ma posto che gli appelli contro le 1.500.000 sentenze emanate dal giudice di pace si misurano nell'ordine del 3-4%, una concentrazione così grande di lamentele un pochino mi sorprende. Sì, vabbè, sono due giudici, però guardi, tra l'altro ci sono altri ascoltatori che sono in attesa per intervenire. Alessandro da Modena vorrebbe raccontare che da 3 anni aspetta una sentenza di un giudice di pace, quindi insomma anche in questo caso è un po' un caso simile a quello che abbiamo sentito prima, che era ben più grave perché parlavamo di 7 anni, insomma le problematiche ci sono. Detto questo, adesso magari cercheremo anche di individuare qualcuno che ha risolto con successo una causa di fronte a voi, sono sicuramente la maggior parte. Non sono certamente contrario alla denuncia di casi nei quali il giudice di pace non si è comportato correttamente, perché l'ambizione di tutti noi è che il giudice di pace venga riconosciuto come un giudice che ha a cuore le sorti dei cittadini che a lui si rivolgono e che opera allo scopo di portare il più rapidamente possibile la decisione. Non saranno magari delle decisioni perfette, ma saranno delle decisioni tempestive. E la domanda di giustizia, prima di tutto, è una domanda che esige una risposta pronta. E allora, il giudice Petrelli che ancora non accetta di questo fatto che qualche sentenza venga, come dire, che arrivi un po' in ritardo, il giudice non accetto, cioè non sono d'accordo. Io credo il giudice di pace abbia il dovere, come gli altri giudici professionali, di rendere la propria sentenza nello tempo strettamente necessario. Io credo che un anno sia il termine entro il quale qualsiasi tipo di causa, sia pure quelle nelle quali è richiesto l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, debba essere portato a conclusione. Ecco, siccome a Salva Danaio ovviamente affrontiamo quasi solo ed esclusivamente tutti gli aspetti economici delle questioni, una causa davanti ad un giudice di pace, chi mi aiuta, Giovanni o Alessandro, quanto può costare? Chiaramente dipende dal valore economico della causa che arriva lì davanti, ma insomma in termini di tempi anche. Alessandro, mi vuoi aiutare? Gli onorari sono poi fissati anche dagli ordini professionali adesso, quindi credo che dobbiamo difficilmente andarci con un legale mediamente davanti a giudici di pace. Si può anche andare si può stare anche in proprio. No, si può fare, sì, è vero, si può fare anche in proprio se non eccede il valore il minimo previsto dalla legge, e quindi se non supera i 500 euro di valore. Altrimenti il giudice di pace, tenuto conto delle caratteristiche della persona, se si trova di fronte ad esempio a uno studente di giurisprudenza che glielo richiede, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona. Ma questo mi permetto di dire che io sconsiglio, che non è la strada che perché la controparte si presenta assistita da un avvocato, e poi non è che il giudice può mettersi a fianco della parte per suggerire quali sono gli strumenti processuali che deve utilizzare, per cui rischia di diventare di trovarsi in grave difficoltà. Ma i costi della causa, secondo me, poi sono quelli che scoraggiano anche l'appello. C'è una bassissima percentuale d'appello perché diamo atto ai giudici a essere molto come bravi, diceva Francesco prima per la questione del condominio, il rapporto relativo euro, tra il costo e il valore della causa e il costo delle parcelle legali è talmente elevato, non perché le parcelle siano poi così nominalmente alte, ma sulla percentuale del valore che uno non sostiene 3 gradi di giudizio. Posso dire però che le impugnazioni nei confronti del pretore, che per certi versi può essere assimilato al giudice di pace di oggi, erano attorno al 25%. Io non sto mettendo in dubbio la qualità del servizio reso, dico c'è anche questo obiettivo. No, non c'è dubbio, vero. Questo è il sentore comune, cioè io ho frequentato palazzi di giustizia per 15 anni e so che questo è il vero deterrente. Però questo può essere anche visto in chiave positiva, cioè le parti si acquietano, hanno ottenuto la sentenza di un giudice e decidono considerato tutto, che vale la pena di non insistere. L'avvocato a volte spiega che il giudice non ha capito niente, quindi la parte dice vabbè, è inutile pagare due volte per non capirci nulla. Giovanni Negri, c'è un ascoltatore che chiede: ma chissà cosa fanno di bello i difensori civici? Che cosa c'entra rispetto a tutta la materia che stiamo trattando questa mattina? Ha ragione l'ascoltatore a sollevare questa obiezione? Beh, in questo caso c'entra poco, perché stiamo parlando dei giudici di pace. I difensori civici sono delle figure non giurisdizionali, che intervengono in alcune materie molto, molto particolari, ma la cui decisione eventuale non ha certo la forza della sentenza pronunciata dal giudice di pace, non è soggetta ai tre gradi di giudizio che ci ha ricordato anche prima il presidente Petrelli. Ecco, c'è una figura completamente diversa. Rita da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo sapere se ritorna di competenza ai giudici di pace il reato di guida in stato di ebbrezza. Scuote la testa il giudice Petrelli. Non mi risulta che sia stato preso in considerazione. Tutto ciò che invece, Giovanni, sì, riguarda la gestione delle problematiche legate a sinistri? No, questo sì, con quel limite di valore che abbiamo ricordato prima, cioè che da sabato prossimo sarà di 20.000 euro. Nel campo penale, per rispondere forse alla signora che forse era attenta a questo aspetto, ecco, non l'abbiamo forse ricordato, ma il giudice di pace ha delle competenze specifiche anche nel campo penale, e a breve, probabilmente entro l'estate, dovrebbe essere approvato il disegno di legge sulla sicurezza e potrebbe essere attribuito al giudice di pace la competenza a giudicare sul reato di immigrazione clandestina, una delle novità principali di queste norme in arrivo, e un ulteriore, io credo, sensibile aumento del carico di lavoro per i giudici di pace in una materia, come tutti capiamo, estremamente delicata. Alessandro, volevi intervenire? Sì. Volevo dare un dato quantitativo che abbiamo pubblicato su Sole 24 Ore una decina di giorni fa. Ci sono 1.400.000 liti arretrate davanti ai giudici di pace in Italia, a fronte di un arretrato di 5.400.000 cause nel Tribunale Civile. Quindi quello che diceva Giovanni prima, cioè si sta pensando ancora, e diceva anche sosteneva anche il giudice, di continuamente allargare le competenze erodendole ad altri, senza tener conto che il rischio default adesso viene spalmato anche su questi sui giudici di pace, al posto di andare incontro a un'effettiva risoluzione del... È vero che nell'impianto complessivo di questa prima mini riforma l'obiettivo è quello di accorciare i tempi, cioè sono state fatte tutta una serie di misure che per il momento secondo me sono semplicemente strumentali a quello che succederà nei prossimi due anni con la riduzione dei riti, per cercare di dare una celerità, non solo di smaltire l'arretrato, ma di dare una celerità al processo. Certo che se cominciamo subito con una settimana di sciopero, giudice Petrelli... Ma io mi auguro davvero che possa essere scongiurato, non credo che i giudici di pace pretendano troppo, pretendono attenzione, pretendono rispetto, hanno bisogno di vedersi... Io non capisco come possa essere negata un'indennità di maternità ad un giudice di pace che si assenti dal servizio perché è incinta, insomma, fare un esempio. In quanto donna mi pare di poter appoggiare la sua sensibilizzazione. Piero dalla provincia di Torino. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Certo, ci mancherebbe. Allora, senti, io mi sono Piero, avevo la macchina del figlio, prendo una multa e la pago, poi faccio... chiedo il giudice di pace, vado all'udienza, mi danno ragione, visto però giudice. Non ho riportato niente. Vabbè, non gli è arrivato praticamente il risarcimento, in sostanza, pagato, ha avuto ragione della multa che... Ma la legge prevede che qualora si paghi la sanzione nella misura ridotta prevista, non sia più ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace. È una delle ultime innovazioni di due anni fa circa, per cui... Francamente non vedo come si possa... Cioè, quindi se lui, tra l'altro, riteneva di aver ragione, ma se ha pagato, non doveva pagare ed eventualmente fare ricorso. Quindi invece lui si è messo subito in regola. Ha fatto bene l'ascoltatore. Anche perché adesso non si può più andare a... Non può più andare a rivendicare con nessuno. Ma poi perché... La valanga di ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste al codice della strada molto spesso, o almeno spesso, è abbastanza immotivata. In sostanza si prova a fare ricorso nella speranza che il giudice riconosca illegittimo l'operato della pubblica amministrazione. Luciano da Bari, l'ultima telefonata di oggi deve essere, se ce la fa, telegrafico. Sì, telegrafico, buongiorno a tutti. Senta, volevo che il giudice parlasse, qualora ne sia al corrente, del fatto che se una sentenza arriva in ritardo, cioè in modo irragionevole, parliamo di 10 anni, 12 anni, 13 anni, 15 anni, sia previsto un rimborso per i partecipanti addirittura al processo. Sì, ma lei mi parla di una causa comunque che viene portata davanti al giudice di pace, Luciano, in termini generali? Ma parlava di 7 anni un ascoltatore. Ah, sì, certo. Quindi anche in quel caso ritengo che, essendo irragionevole come tempo, debba essere prevista una cosa del genere. Mi pare che portiamo il giudice di pace davanti ad un altro giudice di pace, Luciana. Adesso non vorrei essere provocatoria. Sì, le vuole rispondere Giovanni Negri, la interrompo perché stiamo chiudendo. Sì, poi faccio fare un giro finale a tutti. No, Giovanni. Quello che volevo dire è che da un po' di anni nel nostro paese esiste una legge nota come legge Pinto, che prevede un vero e proprio risarcimento per i cittadini che abbiano subito un danno per l'eccessiva lunghezza del processo. Qual è questa eccessiva lunghezza? È quella determinata dai parametri definiti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e quindi sostanzialmente per un giudizio civile, diciamo che stiamo sui 6 anni sostanzialmente. 3 in primo grado, 3 più 2 più 1. Quindi il giudice Petrelli voleva aggiungere qualcos'altro. No, 7 anni citati da prima per il deposito della sentenza dell'ascoltatore. Stiamo parlando di deposito della sentenza, ci siamo già arrivati. Di sentenza che è stata emanata che le cui motivazioni non sono state depositate. È assolutamente anomalo e da rifiutare, ovviamente. Benissimo. Allora, i temi di cui poter parlare sarebbero davvero tanti. Purtroppo non ci riusciamo a stamattina, perché quando ci si diverte il tempo vola, e anche stamattina abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Però, giudice, volevo leggere il messaggio di Daniela da Viareggio, che dice: non ci racconta il caso, ma dice: io ho risolto con grande successo una causa con una giudice di pace. Molto bene, io ho molta stima delle colleghe giudici di pace, perché sono state le prime a rendersi conto che questa professione, questo compito, va esercitato con grande amor proprio, con grande determinazione. Grazie molte, grazie al giudice Franco Petrelli, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace, ai colleghi Giovanni Negri e Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Oggi l'Instant Books, il nuovo processo civile in edicola con il Sole 24 Ore. Noi torniamo domani, buona giornata.